Questa è la storia del mio orale in termodinamica. Un fallimento. Termodinamica, capitolo 4. In termodinamica, entropia è una funzione di stato che si introduce insieme al secondo principio della termodinamica e che viene interpretata come la misura dell'ordine del sistema fisico e più in generale dell'universo. Mi dia la definizione formale di entropia. La definizione infinitesimale di entropia è S uguale a T su T. Non proprio, infatti si controlla sul libro il termine del Q, provvisto di 13 professore, non lo so, però è dinamica di capito, se adesso le do un bel 18. Il professore non potrebbe farmi tipo un'altra domanda? Assolutamente no. E vabbè, allora mi dia 18. Sì, è un'ottima decisione, non se ne dirà di certo.